Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Virus cinese sale l'allarme, il bilancio attualmente di 9 decessi, oltre 400 nuovi casi, e si registra il primo contagio negli Stati Uniti. A Obiettivo Salute facciamo il punto della situazione insieme alla professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia all'ospedale Sacco, Università di Milano, centro di riferimento nazionale per le bioemergenze. Professoressa Gismondo, buongiorno. Buongiorno a voi. Il coronavirus cinese inizia a far paura, anche le autorità cinesi riferiscono che può mutare propagarsi più facilmente. Due dati: in Cina sono stati colpiti dal contagio alcuni operatori sanitari e è stato registrato il primo caso negli Stati Uniti. Ci aiuta a leggere questi nuovi dati? Beh, il fatto che le autorità cinesi abbiano detto che il virus può mutare non è una novità. Tutti i virus mutano, sia nel senso positivo per loro ma negativo per noi, cioè diventare più infettanti e contagiosi, sia nel senso negativo per loro ma positivo per noi di perdere la loro virulenza. Fa parte del gioco della loro vita. Per quanto riguarda il primo contagio negli Stati Uniti, lo aspettavamo, perché in questa globalizzazione la popolazione viaggia e ovviamente viaggiando porta con sé bagagli, ma anche bagagli quali virus e batteri. Quali rischi corre l'Europa, professoressa Gismondo? Corre i rischi che sta correndo tutto il mondo, il fatto che arrivino delle persone infette e che si possa diffondere l'infezione. Ma non voglio assolutamente creare panico. I sanitari che si sono infettati in Cina probabilmente avevano delle misure, dei protocolli di sicurezza, che avevano delle fessurazioni, insomma, attraverso quali il virus è potuto passare. Siamo in Italia, in tutto l'Occidente, ma in gran parte anche dell'Asia, ad alto livello ormai di professionalità in quest'ambito. Italia ci ha insegnato molto. In Italia è infatti attiva una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus. La situazione è monitorata dal Ministero della Salute, che è in contatto continuo con le autorità sanitarie internazionali. In ogni caso, a partire da domani, giovedì 23 gennaio, data in cui è previsto il prossimo volo diretto dalla Cina di Wuhan all'aeroporto di Roma Fiumicino, il Ministero ha predisposto l'attivazione di un canale sanitario con controllo della temperatura attraverso scanner. A Obiettivo Salute, Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute. Buongiorno e grazie dell'invito. Sì, c'è una rete di sorveglianza. È vero che da domani sarà disponibile lo scanner per valutare coloro che provenendo dalla zona dove è iniziato il contagio si potrà verificare se hanno la febbre o meno. Però è pur vero che il Ministero della Salute già dai primi di gennaio, a dire vero già dal 9, ha controllato tutti i voli provenienti da quella città secondo lo standard garantito in Europa e ovviamente in accordo con l'agenzia europea che controlla la diffusione delle malattie. Quindi noi siamo già attivi, abbiamo già controllato i 6 voli che sono atterrati a Fiumicino, quindi una rete di sorveglianza ovviamente attenta, accurata e ovviamente in collaborazione con l'Europa. È chiaro che la diffusione ci sarà ed è probabile, possibile che qualche caso verrà registrato anche in Europa, però si tratta di un virus vero nuovo, altri virus ovviamente ci saranno anche in futuro, situazioni del genere avverranno in futuro come sono avvenute in passato. L'importante è proprio questa rete di sorveglianza, che consentirà di individuare coloro che ne sono affetti, limitare ovviamente i contatti di questa persona e curare coloro che eventualmente saranno male. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto per la mia diretta Facebook. Non mancate, una buona giornata da Nicoletta.